Capitolo 32. Sono trascorsi 4 anni da quando Bogdanov è stato ospite della GPU. I corridoi verde pallido sono sempre gli stessi, vuoti e costellati di porte. L'interrogatorio si tenne in una stanza simile a quella in cui si trova ora, magari la stessa. Rettangolare, 5 passi per 6. Niente finestre, solo 2 porte che interrompono le pareti più lunghe, come allo specchio. Al centro, il tavolo di legno scuro e intorno 3 sedie, rivestite in cuoio. Lo accusavano di essere l'ispiratore di Verità Operaia. Prove a carico? 3 articoli pubblicati sul giornale del gruppo, zeppi di terminologia bogdanoviana. Ogni capoverso ribolliva di egressioni, degressioni, ingressioni. Gli rinfacciavano di non essersi dissociato da quegli scritti reazionari. «Non ho ritenuto di averne bisogno», pubblico libri da 1/4 secolo e alcuni sono materia di studio nelle scuole dell'Unione. I miei lavori sulle trasfusioni, sulla cultura proletaria e sulla tecnologia vengono commentati in tutta Europa. Non immaginavo mi si potesse associare a un gruppetto di giovani invasati che redigono un foglio tirato al ciclostile. E poi non sono più un politico, ma uno scienziato. Se siete uno scienziato, perché un gruppo di oppositori si è preso tanto a cuore i vostri scritti al punto di adottarne la terminologia? Perché quegli scritti sono al centro di una campagna denigratoria che li presenta come eretici e li rende affascinanti per i giovani irrequieti, mentre io mi ritrovo tra l'incudine e il martello, tra chi distorce le mie teorie per poterle attaccare e chi le distorce per farne una bandiera. Non avete forse scritto che in Unione Sovietica, come in Occidente, gli organizzatori e gli ingegneri tendono a prendere il potere con l'appoggio dei partiti politici? Ho scritto che nell'Unione Sovietica questo non avviene, perché i nostri organizzatori non conoscono ciò che organizzano. Non avete forse scritto che in Unione Sovietica il comunismo ha per obiettivo i bisogni della produzione e non quelli degli operai? Ho sostenuto che in una situazione di crisi economica come questa che viviamo, la produzione deve avere la priorità. Non avete forse detto che il nostro non è un partito di lavoratori, ma di soldati lavoratori? Sì, e poiché i soldati che stanno nel partito sono in origine operai o contadini, ho scritto che il partito è fatto di operai e contadini. E via di questo passo, per un'intera giornata, finché non lo schiaffarono in gattabuia, in attesa che la sua situazione si chiarisse. La dittatura del proletariato non può concedersi l'habeas corpus. Cella numero 49, in compagnia di un delinquente comune, senza poter uscire, senza libri. Dopo 2 settimane, gli portarono almeno l'occorrente per scrivere una lettera al gran capo della polizia politica, Felix Edmundovich Dzerzhinsky, come lui nato nelle terre tra Minsk e Varsavia, bolscevico di vecchia data. Compagno direttore, i vostri investigatori sono stati corretti e scrupolosi, ma voi mi conoscete, potete capire meglio. Sapete cosa significa agire sul palcoscenico della storia, che è il nostro giudice comune. La richiesta di un colloquio privato concesso il giorno stesso. La promessa di un rilascio entro 1 settimana e il permesso di incontrare Natalia. In cambio, l'ordine di mettere per iscritto il proprio punto di vista sulla rivoluzione. Un compito da niente, completato in 6 giorni. Eppure, la porta della prigione rimase chiusa, al punto da doverli minacciare di dare in escandescenze, farsi venire un infarto e crepare là dentro. Infarto che lo colpì davvero, pochi giorni dopo la scarcerazione. Adesso eccolo ancora lì, in attesa di un nuovo interrogatorio. Nel frattempo, Dzerzhinsky è morto e alla guida della polizia segreta gli è succeduto il suo vice, Menzhinsky, un altro vecchio sodale che insegnò agli operai come si stampa un giornale, in una tipografia della scuola di Bologna. Bogdanov siede nella stanza vuota, in compagnia dei propri pensieri, mentre passa 1 ora, forse 2, o chissà, in attesa non già di conoscere la propria sorte, di cui davvero non gli importa nulla, bensì che qualcuno entri e gli confermi la soluzione del rebus, la fine della ricerca, se mai una ricerca può dirsi conclusa. Alla scuola di Bologna c'era anche Leonid e Alexandra Kollontai, che lo amò per qualche tempo. Ricevetti una lettera di Leonid nella quale mi diceva che aveva deciso di tornare, poco prima che il governo venisse trasferito a Mosca. Menzhinsky mi disse che aveva incontrato Volokh, da poco rientrato dall'estero. Leonid tornò, soltanto per sparire poco dopo, un nome nuovo e un compito nuovo: combattere i nemici dello Stato sovietico, un eroe anonimo. Quando, dopo un tempo incalcolabile, una delle due porte si apre, Bogdanov si ritrova a guardare Leonid Volokh, che entra e si accomoda di fronte a lui, con il tavolo nel mezzo. «Perdona l'attesa, è una giornata difficile». Sfila di tasca un paio di sigarette e gliene porge una, ma lui rifiuta. Volokh l'accende per sé, tenendola tra le dita gialle di nicotina. Tira un paio di boccate, mentre lo osserva con curiosità, la bocca nascosta sotto i folti baffi. I capelli striati di grigio, le rughe sopra gli zigomi, rivelano il tempo trascorso. «Sembri più giovane di me», dice dopo uno sbuffo di fumo, «e hai 10 anni di più. Dovrei venire anch'io a fare le trasfusioni al tuo istituto». «Hai una malattia rara», annuncia Bogdanov. «Se non tenti una cura, potresti morire in fretta». Volokh annuisce. «Lo so, i medici me l'hanno detto. Non quelli dell'ospedale dove hai trovato la mia cartella clinica. Medici migliori. Dicono che ho una bomba in corpo. È solo questione di tempo prima che scoppi. La mia malattia è talmente rara che nessuno ne sa niente. Hai rischiato di non trovarmi più. Pensa che disdetta». Bogdanov non raccoglie il sarcasmo. Non sa nemmeno a quale scopo l'abbia portato lì, e non è questo che ha voglia di chiedergli. «Perché ti fai chiamare Igor Pajin?» Un'altra boccata, assaporata fino in fondo, a sfregio della tubercolosi. «È un nome come tanti. Tu quanti ne hai cambiati? Nemmeno Bogdanov è il tuo vero nome». «Sai, quando ti ho visto per le scale l'altra sera mi sono stupito. Finché te ne andavi in giro a domandare di Leonid Volokh ai vecchi compagni, non mi sono preoccupato. Ma non credevo di trovarti sul pianerottolo di casa». «Da quando fai parte della GPU?» domanda Bogdanov. «Da quando ancora si chiamava Ceca. Menzhinsky mi ha reclutato appena sono rientrato in Russia, nel 17. Mancavo da più di 10 anni. Ero un buon candidato per la polizia segreta. Ricordi quando ti hanno portato qui, qualche anno fa, per la storia di Verità Operaia, e sei finito sotto il torchio di Agranov?» «Un tuo collega molto scrupoloso», commenta Bogdanov. Volokh cancella l'evocazione soffiandoci sopra il fumo. «Un ottuso burocrate. Voleva sequestrare la lettera che avevi scritto a Zernshinsky. Sono stato io a fargliela arrivare». «Grazie». «Non c'è di che. Si erano messi in testa di incastrarti. Pensavano davvero che tu fossi un sovversivo». «Sono stato anche quello», dice Bogdanov, con più durezza nella voce. «Lo eri per lo zar», replica Volokh, quasi parlasse tra sé. «Non per l'Unione Sovietica. Ormai ho una certa esperienza in materia. Ho combattuto i bianchi, gli ammutinati di Kronstadt, le spie imperialiste», indica Bogdanov. «Su quella sedia ho interrogato Sidney Reilly prima di spedirlo davanti al plotone d'esecuzione. Tu non sei né una spia né un nemico della rivoluzione. Non stai con l'opposizione, ma nemmeno con Stalin. Non sei un menscevico e nemmeno più un bolscevico». Le folte sopracciglia si increspano. «Come ti definiresti?» Le parole escono spontanee, senza pensare. «Un marxista marziano». Volokh dà una manata sul tavolo. «Bella risposta». Nella voce una traccia dell'antica ammirazione. Faccia a faccia, come 20 anni prima. I ruoli però sono ribaltati. Adesso è Volokh il più forte e senza nemmeno bisogno di una pistola in tasca. Dispensa saggezza, disincanto, determinazione. E lo fa con parole appropriate, padronanza di linguaggio. Segno che nel tempo trascorso non ha mai smesso di istruirsi, di migliorarsi, come un degno studente della scuola operaia. Dovrebbe compiacersene, e invece gli sembra una presa in giro. «E tu?» lo incalza. «Come ti definiresti? Com'è possibile che uno studente della scuola di Capri e di Bologna sia diventato un inquisitore?» Volokh annuisce, come se si aspettasse la domanda e ne capisse le ragioni profonde. «Hai sempre detto che un discepolo deve andare oltre il maestro, altrimenti lo segue nella tomba. Ricorda, tu mi hai insegnato che un sistema si regge sull'organizzazione, ma perché si regga bisogna difenderlo dalle degressioni. È quel che ho fatto. Ho difeso la rivoluzione mentre tu la criticavi. Credo che abbiamo fatto entrambi la nostra parte». Bogdanov appoggia i palmi sul tavolo, allargando le dita, come se volesse incollarle alla superficie di legno o si accingesse a suonare una tastiera invisibile. Parla fissando un punto in mezzo alle mani, per rimanere calmo e concentrato. «Io non ho mai inteso che l'organizzazione dovesse essere gerarchica, che i burocrati dovessero prendere il potere. Difendere questa tendenza in nome del mio pensiero significa tradirlo. Ecco, glielo ha sputato in faccia, ed è come dire che oggi meriterebbe il proiettile risparmiato un giorno di 20 anni fa. Volok replica a Serafico. Hai detto le stesse cose l'ultima volta che sei stato qui, ricordi? Hai detto di essere stato frainteso da tutti. Per essere un eretico, come ti definisci, sei strano. L'unico custode dell'ortodossia bogdanoviana. Le dita si rilassano, la rabbia tracima e diventa delusione. Bogdanov tace. D'un tratto è stanco, addirittura spossato. «Perché mi hai cercato?» chiede Volok. È giunto il momento di dirgli di Danny. Bogdanov trascina le parole, le lascia affiorare alle labbra che vorrebbero rimanere serrate. «Non sei l'unico ad avere la stessa forma anomala di tubercolosi. Ce l'ha anche tua figlia». Bogdanov cerca invano le tracce di una reazione su quel volto segnato. Volok seguita a fumare. «Sapevi di avere una figlia?» «No. La madre è morta quando lei aveva 6 anni», riprende Bogdanov. «Adesso ne ha 20. L'ha cresciuta lo Stato. Ha con sé una banconota della rapina di Tiflis. Immagino che tu l'abbia donata alla madre quando te ne sei andato. Probabilmente in quei mesi del 1907, durante i quali non sei stato da nessuna parte. Volevi sdebitarti con lei per averti accudito. La ragazza ha anche il tuo anello ricavato dal bullone e ha la tua stessa rarissima patologia». Volok sembra riflettere su quanto ha appena ascoltato, ma ancora non ci sono reazioni. Il suo carattere deve essersi raffreddato durante gli anni di servizio nella polizia politica. Bogdanov guarda le mani forti, le dita grosse da operaio e soldato che ricordava bene. Mani che hanno agito al servizio dello Stato sovietico e hanno fatto cose che non è difficile immaginare. «Adesso dov'è? All'istituto?» domanda Volok. «Sì», risponde Bogdanov. «Si è presentata da me per avere tue notizie. Crede di essere la figlia di Netti e del protagonista di Stella Rossa». Dopo un istante, Volok scoppia in una risata sincera, la stessa che chiunque l'abbia conosciuto ricorda bene, e per un momento è come se 20 anni non fossero passati. «Ma allora Bogdanov è figlia tua, non mia!» Bogdanov rimane serio, spiazzato da quell'asserzione semplice e immediata. Volok getta il mozzicone sul pavimento e lo schiaccia sotto la suola. Poi appoggia i gomiti sul tavolo, le dita intrecciate, e scruta Bogdanov con l'aria ancora divertita. «I figli sono di chi li cresce, e certamente io non l'ho fatto». «Nessuno di noi l'ha fatto», ribatte Bogdanov. «Avevamo il mondo da cambiare. Non abbiamo mai creduto nella famiglia borghese». Volok smaltisce gli scampoli di larità e torna a riflettere sulla notizia. «E questa ragazza, che dici essere mia figlia, cerca il protagonista di un tuo romanzo perché crede che sia suo padre». «Quel personaggio sei tu, come ben sai», soggiunge Bogdanov. «Davvero?» Bogdanov non saprebbe dire se la domanda è retorica, ma decide di rispondere come se non lo fosse. «Sei stato tu a raccontarmi il tuo viaggio su Nakun. Eravamo a Capri. Non te lo sei dimenticato?» Volok si accende anche l'altra sigaretta. La prima boccata manda le volute azzurre di fumo a ondeggiare intorno al lampadario. «Sei tu che hai dimenticato, Bogdanov. Io ti ho raccontato un sogno fatto nel delirio, ma i tuoi romanzi sono soltanto tuoi. Non sono io a essere stato su Nakun. Sei tu. Se quella ragazza cerca suo padre in quel Leonid, allora sta cercando te». Bogdanov non trova parole per replicare e rimane zitto. «Mi spiace per la sua malattia», riprende Volok. «Ha il destino segnato e io non posso farci niente». «Potresti almeno rispondere alla domanda che vorrebbe porti». «Quale domanda?» «Se ce l'abbiamo fatta, se il mondo poi l'abbiamo cambiato davvero e in meglio, se il sacrificio è valso la pena». Volok soffia ancora ad alimentare la nuvola di fumo che aleggia sulle loro teste come una nebbia di pensieri. «A questo puoi rispondere anche tu. Abbiamo intrapreso una strada tortuosa e costellata di sbagli. Alcuni evitabili, altri no. Chi può dire se arriveremo un giorno alla società senza classi? Non c'è modo per scoprirlo, se non provare. Conoscere il mondo e cambiarlo sono la stessa cosa. Cambiare il mondo e cambiare noi stessi sono la stessa cosa. Non è quello che hai sempre detto? Per quanto alto sia il prezzo da pagare, non sarà mai più alto di quello che l'umanità ha già pagato in secoli di schiavitù e sfruttamento». Bogdanov rimugina le parole come se dovesse mandarle a memoria. Potrebbe riportarle a Danny perché si metta il cuore in pace e si rassegni a essere terrestre come tutti loro. È quanto gli resta da fare, se glielo permetteranno. Ritrovare la via di casa, di Natalia, di Kotick, di Danny. Di quella famiglia che ha rifiutato per una vita e che adesso vuole riagguantarlo. Una sensazione che lo irrita, eppure non desidera altro. Vorrei avvertire mia moglie che sto bene. A quest'ora sarà molto preoccupata. Volok spegne la seconda sigaretta e si alza. Certo, verrai riaccompagnato a casa. Appena gli ultimi strascichi della giornata saranno finiti. Così saremo certi che non ti troverai nel posto sbagliato al momento sbagliato. Devi avere ancora un po' di pazienza. Faccio portare del tè e qualcosa da mangiare. Quanta premura, commenta Bogdanov con un sarcasmo involontario. Volok risponde già accanto alla porta. 19 anni fa mi hai dato una possibilità. Avresti potuto farmi finire in fondo al mare e non l'hai fatto. Non me lo sono dimenticato.